Riflessioni da Marte. Anche qui da Marte si è saputo, l'ho potuto verificare direttamente da quassù col mio telescopio, che questa è stata soprattutto la settimana del quorum. Come negarlo, del resto? Tanto per cominciare, come non citare per esempio il piccolo grande quorum della pecora migrante, che in questi giorni, sfidando le intemperie, l'imprevedibilità del mare e soprattutto quella degli uomini, è sbarcata placidamente belante da un barcone zeppo di esseri umani a Lampedusa. Secondo i racconti di alcuni testimoni, tra l'altro, durante il viaggio avrebbe persino sfamato con il suo latte un bambino. E secondo voi, come hanno accolto il suo piccolo quorum pacifico e curioso coloro che l'hanno vista sgambettare sulla terraferma, finalmente contenta che fosse passato quello strano mal di mare, accoppandola di lì a poco? Per la povera pecorella venuta dalla Tunisia, infatti, non c'è stata né quarantena, né uno straccio di status di rifugiata politica o di importatrice pacifica di lana. Niente, solo le regole ferree del Piano Nazionale di Sicurezza Sanitaria. Un colpo e via la pecora. E poi, i giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno minimamente tenuto conto forse del quorum innamorato di una coppia dove lui è diventato una lei dopo il matrimonio, ma continuano a amarsi come prima? No, ma che? Cosa hanno deciso infatti i giudici? Che le nozze vanno sciolte. Punto e basta. Questo dal momento che nelle mutande di uno dei due erano cambiati i contenuti e quindi il matrimonio non valeva più. Dunque per i giudici matrimonio da cancellare senza tener conto che nessuno separi ciò che il quorum ha unito. E infine, ma quanto quorum hanno avuto le donne saudite che in uno dei paesi più ricchi del mondo subiscono mille divieti, tra cui quello di votare e quello di guidare? Che quorum coraggioso hanno avuto, dicevo, nel decidere che adesso basta? E in decine, pur col velo, si sono messe ieri impunemente alla guida di un carosello di auto con un tantam inarrestabile su Facebook e Twitter. E postando poi felici come bambine, pur sapendo i rischi che corrono, sui social network la loro folle trasgressione di condurre un'auto. Potremmo dire che sono la parte migliore dell'Arabia Saudita. Un grande quorum femminile, insomma, che segna una giornata e un momento storico per poter finalmente dire donne al volante, libertà crescente. Guido piano. E ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta, si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole.